Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio. Ed eccoci appunto su Radio Onda Rossa. Dovremo avere al telefono Antonio dei Comitati No Muos. Pronto, ci senti? Sì, ci sono, buongiorno. Oh, buongiorno. E appunto, già stamattina in rassegna stampa abbiamo letto un articolo sul Manifesto che racconta di come il presidente della regione Sicilia, Crocetta, sembra aver cambiato idea a 360 gradi sulla questione Muos. Sì, ma allora, devo essere sincero, non abbiamo mai creduto nella buona fede e nella serietà dell'impegno. Noi abbiamo scattato la revoca delle autorizzazioni dopo mesi e mesi di contenzioso con la giunta regionale e soprattutto dopo che una serie di compagni hanno pagato con la repressione, bloccando e rendendo di fatto operativo il blocco reale dell'installazione dei lavori. E io proprio ieri, tra l'altro, alla vigilia dell'incontro, dell'udienza che oggi si doveva tenere a Palermo rispetto alla conferma oppure no degli atti della regione di divieto dei blocchi, avevo già denunciato un fatto gravissimo. La regione, invece di presentare una memoria contro il Ministero della Difesa, ricca di documenti che tra l'altro avevamo fornito in tutti questi mesi agli avvocati della regione siciliana, si era tenuta veramente una posizione defilatissima, presentando una memoria di appena due pagine. Al contrario, gli avvocati dei comitati No Muos hanno presentato fior e fior di documenti insieme all'Legambiente e al WWF. Pertanto avevamo già pressione nell'aria che ci fosse il tentativo di defilarsi dal contenzioso col Ministero della Difesa. Ieri, veramente inaspettato, è arrivata questa comunicazione che di fatto è la revoca delle revoche. Da oggi in poi, se vogliono, gli americani possono tranquillamente ricominciare a costruire queste parabole di morte. E sì, nel senso, alla buona fede di Crocetta non ci credevamo nemmeno noi, insomma, evidentemente. Però sul Manifesto l'articolo è firmato Zucchetti, che è un tecnico della regione Sicilia che sì, probabilmente voi conoscete, e lui suppone pressioni esterne, perché insomma Crocetta ha utilizzato il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità per dire che il MUOS non è un problema, ma di fatto si sa, è evidente che è uno stratagemma non veritiero, insomma, questo, e quindi il motivo è politico, evidentemente. Ovviamente, Massimo Zucchetti, tra l'altro, che è vero che è il tecnico convocato dalla regione, ma è il tecnico del movimento, è lo studioso del Politecnico di Torino, in prima fila nelle battaglie NOTAV e la battaglia No Muos da tempo. Zucchetti ricorda un fatto che è ancora estremamente grave. Il rapporto che dell'Istituto Superiore della Sanità, che il Crocetta ritiene veritiero, è un rapporto mutilato, è un rapporto ricco di omissioni, è un rapporto che non rispetta un accordo che era stato sottoscritto a Roma a metà luglio, quando all'interno di questo comitato di lavoro si è consumata una spaccatura enorme tra i tecnici diretti dell'Istituto Superiore della Sanità, che ritenevano il MUOS compatibile dal punto di vista ambientale, e i tecnici nominati dalla regione, tra cui il professor Zucchetti, che con tutta una serie di allegati dimostravano l'enorme pericolosità per la salute umana e per il traffico aereo civile e in Sicilia di queste parabole. L'accordo che era comunque stato raggiunto a quella riunione è che il rapporto finale dell'Istituto Superiore della Sanità tenesse conto sia della relazione, definiamola, di maggioranza dell'ISS, ma che ci fossero allegati tutti i rapporti dei tecnici, del professor Zucchetti, che dicevano tutto il contrario. Questo non si è verificato, e soprattutto, nonostante fosse Crocetta a conoscenza della mutilazione, della gravissima omissione di questo rapporto ISS, lo ha sposato completamente, di fatto, cioè sbugiardando e di fatto delegittimando i propri tecnici che, vorrei ricordare, hanno operato a titolo gratuito, perché il professore Zucchetti, insieme ai professori Corrado, Levis e a tutti i ricercatori che hanno operato in questi mesi a fianco dei movimenti No Muos, hanno operato a titolo prettamente gratuito. Senti, la lotta No Muos che non era finita, ce lo immaginavamo anche prima, adesso motivi in più ancora per stare in piazza e per continuare con un coinvolgimento sempre più ampio in questa lotta. Non so se avete impegni, appuntamenti già previsti, come insomma viene articolata nel prossimo periodo la presenza No Muos. Ma allora, avevamo già delle iniziative in cantiere, soprattutto per la prima decade d'agosto, con iniziative a Niscemi, azioni dirette, iniziative di dibattito, confronto, anche con tutta una serie di realtà che nazionalmente si oppongono ai processi di militarizzazione e ai processi di cementificazione del territorio, dai Notate, No Val Molin, i No Triv in Sicilia che si oppongono alle trivellazioni selvagge nella Val di Noto o nella costa mediterranea. Da ieri il comune di Niscemi è stato occupato dai coordinamenti del presidio No Muos. Stamani a Palermo c'è una manifestazione di fronte alla regione siciliana di protesta in cui si chiede apertamente le dimissioni di Crocetta, dell'assessore Lobello e dell'assessore Borsellino. Formalmente stiamo attendendo notizie dagli avvocati, perché comunque era fissata stamattina l'udienza in consiglio di giustizia amministrativa. Ci sarà una conferenza stampa in cui denunceremo a mezzogiorno tutte le gravi omissioni e le violazioni di legge fatte sia dal Ministero della Difesa, ovviamente nell'arroganza di chi vuole imporre sulla pelle della gente i sistemi di morte, di distruzione e i processi di militarizzazione statunitense, ma anche le vergogne di questa giunta regionale che ha tradito per l'ennesima volta le aspettative e le speranze della popolazione siciliana. Già dai prossimi giorni ovviamente si rilanceranno le azioni, e se, come immaginiamo, si presenteranno gli operai scortati dalle forze di polizia per entrare e completare i lavori, ovviamente il movimento No Muos non si ritirerà assolutamente indietro, sarà di fronte per ribadire la reale volontà popolare che si oppone alle guerre, che si oppone alle logiche di morte, che si oppone alle logiche di distruzione e soprattutto a queste violazioni di verità di legge che sono state perpetuate in questi mesi, anzi in questi anni, dal governo italiano e ovviamente a questo punto dall'amministrazione regionale siciliana. Senti, la lotta No Muos è una lotta, a parte insomma che noi ovviamente questa radio sarà con voi come ha cercato di esserlo sempre fin dall'inizio, insomma, ma la lotta No Muos è una lotta che voglio dire non è sola ed isolata, ma si articolano insomma vicinanze anche con altre lotte, penso al Notav in particolare e altre lotte che difendono i nostri territori, e non so se voi, c'è stato anche appunto il campeggio in Val di Susa in cui si è discusso appunto di portare avanti iniziative anche comuni per quanto in cui si parte dai territori per un'articolazione più vasta. Ovviamente si continuerà di sviluppare un percorso, un processo che abbiamo iniziato a metà marzo. Vorrei ricordare che si è costruito di fatto un'alleanza politica importantissima nella storia del nostro paese. 16, 23 e 30 marzo, tre giornate di lotta che hanno messo insieme il movimento No Ponte in Sicilia per chiudere definitivamente questa grande vergogna del ponte sullo stretto di Messina, le manifestazioni del 23 in Val di Susa, 23 marzo, e il 30 marzo la grande manifestazione nazionale a Niscemi con oltre 15.000 manifestanti. Da quel momento in poi le attività, gli incontri, le iniziative si sono moltiplicate. Vorrei ricordare a metà giugno un'iniziativa importante a Venezia contro l'utilizzo della laguna per le grandi navi da crociera, che ha visto nuovamente sedersi a un tavolo i movimenti che si oppongono contro le militarizzazioni dei territori, ripeto, contro il consumo di territori e contro le cementificazioni. È un percorso che va avanti, le iniziative si moltiplicano e a questo punto diventa doveroso l'appuntamento della prima decade d'agosto, quando veramente facciamo appello a tutte le realtà antagoniste, a tutte le realtà di opposizione nel nostro paese per scendere a Niscemi, e a 30 anni dai grandi blocchi di Comiso, quando si tentò di impedire l'installazione dei missili nucleari, nell'8 agosto, tra l'altro il 30° anniversario delle violente cariche del governo Craxi, quando furono dispersi migliaia di manifestanti che bloccavano pacificamente i cancelli di Comiso, proprio nel ricordo di quei 30 anni rilanciamo i movimenti di opposizione a partire da Niscemi. Bene, senti, se non vuoi aggiungere altro, con questo adesso ti salutiamo e poi tanto ci risentiremo molto spesso per seguire questo percorso. Vi ringrazio tantissimo e buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Ciao.